Come ti chiami? Catitina. Di dove sei? Bari. Professione? Segretaria. Che cos'è Neurogreen per te? È forse l'ultima chance di salvezza. Non si chiama così, no? Il flyer. Gli umani se ne stanno andando, quindi prima che sia troppo tardi forse è ora di invertire un po' di rotte. Da Bari, vengo a Torino, pensa a te. C'è vita dopo capitalismo? Mi auguro proprio di sì. Ok, grazie.